E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi lunedì 9 agosto parleremo innanzitutto di fisco, qualcosa vi accennava già il nostro giornale radio, questa serie nuova di controlli a tappeto da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto nei luoghi di vacanza, e questa volta però non si tratta solamente di controlli che riguardano gli stabilimenti balneari o i bar o i ristoranti, insomma, non si va a vedere solamente quello, ma si va a vedere anche quanto spendono le singole famiglie, quanto spendono i singoli contribuenti, se veramente in base a quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi si possono permettere magari un determinato stabilimento, un determinato luogo di vacanza invece che un altro, e ne parleremo col direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Parleremo di Fiat perché oggi Sergio Marchion è tornato ad Auburn Hills, che è la sede di Chrysler, quella che ormai è l'altra branca della società, e sono stati diffusi dati di Chrysler, dati che in realtà non sono piaciuti un granché al mercato, se si considera che Fiat è il titolo peggiore del listino in questo momento, cede il 2,11%, e però l'amministratore delegato ha detto che verranno rivisti a rialzo i target. Approfondiremo questo insieme a una serie di altre notizie che ci sembra giusto mettere insieme, ossia i segnali confortanti per il mercato dell'auto che arrivano però non dall'Italia, non dall'Europa e nemmeno dagli Stati Uniti, ma naturalmente dai paesi emergenti. Ne abbiamo parlato spesso anche nell'ultimo periodo, in particolare quest'oggi arrivano dati dalla Cina, dall'India e da ultimo dalla Russia, arrivata poco fa. Parleremo naturalmente di mercati. La giornata è decisamente positiva, il FTSE MIB guadagna un 1,04%, il FTSE All Share lo 0,96%, l'America ha aperto solo lievemente positiva, il Dow Jones guadagna lo 0,30%, il Nasdaq lo 0,33%, mentre va bene un pochino tutta Europa, insomma continua ad aleggiare la preoccupazione sul fronte della crescita economica degli Stati Uniti, su quanto sia solida effettivamente la ripresa degli Stati Uniti. Di questo tra l'altro si occuperà domani la Federal Reserve. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziando come sempre dal petrolio, gira l'idea sui mercati che si possa crescere la domanda nelle prossime settimane, quindi apre in lieve rialzo, un più 0,9% ad $81,41 al barile. Si diceva dell'economia americana, la Federal Reserve si prepara a rivedere al ribasso le prospettive appunto sulla crescita americana e a discutere come poter sostenere la debole ripresa. Queste sono indiscrezioni pubblicate dal Financial Times. Domani si riunisce il board della Federal Reserve per decidere sui tassi di interesse. Naturalmente movimenti non ne sono granché possibili perché i tassi sono a zero e se appunto la ripresa stenta alzarli non si può. Sono circolate altre indiscrezioni nei giorni scorsi, ossia che la Fed stia preparando una manovra per alleggerire i mutui, ma comunque sia, riporta il Financial Times, nel comunicato ci sarà un linguaggio che segnalerà una maggiore preoccupazione per lo stato dell'economia e assicurerà che la sua politica, assicurerà alla Fed che la sua politica non rallenterà la crescita. Oh, tra l'altro anche dall'ufficio studi di Goldman Sachs oggi sono arrivati segnali preoccupanti sul fronte della ripresa americana. Le previsioni per quanto riguarda il prodotto interno lordo sono state riviste al ribasso per il 2011 ad un 1,9% dal 2,5% stimato inizialmente. E si prevede anche che entro l'anno, entro il 2010, la disoccupazione americana arrivi a toccare il 10%, altro tema di grande preoccupazione. Restando in America, anche Warren Buffett, il guru della finanza americana, può sbagliare. Il colosso finanziario Berkshire di Buffett ha registrato nel secondo trimestre utili in calo del 40% a 1,97 miliardi di dollari. Sempre utili sono, però. È tutta colpa dei derivati sottoscritti dalla Berkshire sugli indici azionari, costati 1,8 miliardi nei tre mesi, contro una plusvalenza di 1,96 nello stesso periodo dell'anno scorso. E sono proprio quei derivati che continuano a produrre perdite per Berkshire dal 2008, appannando la fama di remida della finanza che circonda Buffett. Restando in America, è stata molto pesante oggi l'apertura in borsa di Hewlett Packard, un calo di circa il 6%. L'amministratore delegato si è dimesso improvvisamente per una vicenda di presunte molestie sessuali nei confronti di una dipendente. Invece le buone notizie dall'America arrivano per Ford, perché c'è stato il ritorno all'utile, 2,7 miliardi di dollari nel 2009, dati di vendita 2010 molto positivi, un più 28% fino a giugno, sono il segnale dell'avvenuto risanamento. In questo modo Bill Ford Jr., presidente esecutivo dell'omonima casa automobilistica, da poco, come sapete, rientrato alla guida dell'azienda che porta il suo nome, insomma è l'ultimo di della dinastia, ha incassato 4,2 milioni di dollari, 11,6 milioni in azioni, primo stipendio dal 2006 per Ford, perché il manager si era sospeso la retribuzione e istituito una commissione per decidere quando avrebbe avuto diritto ad un nuovo compenso. Si diceva del settore auto e si diceva dei mercati emergenti. Le vendite di automobili in Cina sono aumentate in luglio del 13,6% su base annua, a 946.200 unità. Per il mercato cinese si tratta dell'incremento mensile più modesto, pensate, il più modesto è più 13,6% dal marzo del 2009. E tra l'altro pubblica dei dati di vendita anche BMW, che parla di vendite in aumento del 12%, soprattutto grazie alla forte richiesta registrata in Cina. Da notare che per BMW questo è l'undicesimo mese consecutivo di aumenti dal settembre 2009 e ci si aspetta dall'azienda che la performance rimanga solida. L'obiettivo 2010 è un incremento delle vendite del 10% ad oltre 1,4 milioni di unità. Allora, per quanto riguarda invece l'India, le vendite di auto sono cresciute in luglio del 38% su base annua, confermando lo stato di buona salute dell'economia nazionale. Per quanto riguarda la Russia, sono dati che sono stati diffusi proprio poco fa dall'agenzia Radio Core. In Russia le vendite di auto sono aumentate del 48% annuo in luglio, trainate dalla ripresa economica e dall'estensione qua degli incentivi alla rottamazione, insomma. E poi dicono dall'associazione di imprese europee con interessi in Russia che ci può essere un possibile rallentamento nell'ultima parte dell'anno dovuto alle ferie della maggioranza delle fabbriche russe, oltre che dalle condizioni climatiche di emergenza in molte regioni della Russia centrale, che vi stiamo naturalmente raccontando, come sapete, nei nostri giornali radio. E veniamo giusto appunto a Chrysler, utile operativo nel trimestre più 28%, ricavi più 8%. Nel secondo trimestre Chrysler ha ridotto le perdite a 172 milioni di dollari contro i 197 milioni del primo trimestre. Il primo semestre operativo con un utile operativo di 326 milioni di dollari e ricavi per 20,2. Siamo qua al semestre. Le perdite nei primi sei mesi sono risultate pari a 369 milioni di dollari. Sono stati confermati i target per il 2010. In Europa e Sud America le vendite raddoppieranno a quasi 200.000 unità, ma saranno probabilmente rivisti al rialzo. Lo stesso Sergio Marchionne, che è amministratore delegato tanto di Fiat quanto di Chrysler, dice: è matematicamente impossibile non rivedere al rialzo i target 2010. Tra l'altro Marchionne sta continuando a parlare in questi minuti, naturalmente approfondiremo la cosa subito dopo i mercati. Ancora Jimmy Choo, la celebre casa di moda britannica fondata nel 1996 dall'eclettico stilista malese con l'allora caporedattrice di Vogue Tamara Mellon, potrebbe presto cambiare proprietà o sbarcare in borsa. Entrambe le ipotesi sono al vaglio. I proprietari del marchio, famoso per disegnare scarpe must per le star di Hollywood appassionati di moda, hanno chiesto la consulenza di alcune banche di investimento per delineare le opzioni strategiche del gruppo. L'operazione sarebbe da 600 milioni di euro. Buone notizie per la Germania, le esportazioni sono cresciute a giugno più di quanto previsto dagli analisti, un più 3,8% rispetto a maggio, quando la crescita era stata del 7,9%, gli analisti si aspettavano un più 1,5%, quindi decisamente meglio rispetto alle attese. Per quanto riguarda l'Italia, invece, ci sono dei dati molto interessanti che sono stati diffusi oggi da Mediobanca e che sicuramente approfondiremo domani. Si parla in generale dell'industria italiana, un'analisi su 2000 imprese, si parla di un'industria in recupero nel primo semestre 2010, soprattutto sul fronte reddituale, dopo il pesante pedaggio pagato alla crisi. Il manifatturiero ha messo a segno un aumento del fatturato del 7% circa, secondo Mediobanca, ma forse i dati più interessanti riguardano la pressione fiscale ancora una volta, perché se nella media, dice Mediobanca, la pressione fiscale nel 2009 è stata al 29,2% sulle imprese, ci sono società che subiscono pressioni superiori all'80%. Attenzione, l'80%. Picchi verso l'alto sono spesso toccati da medie aziende quelle a maggiore intensità di lavoro, ossia quelle sulle quali l'IRAP, consentiteci di dirlo, picchia di più. Altre notizie dall'Italia, i consumi, il sud, per quanto riguarda il sud si parla di un calo abbastanza netto in un rapporto Confcommercio imprese per l'Italia, continua quindi la riduzione dei consumi anche per il 2010, si parla di una crescita dello 0,4%. Che è poca cosa. Invece quella che è apparentemente una buona notizia arriva dall'INPS, perché diminuisce il tiraggio della cassa integrazione a fronte dell'aumento delle richieste di ore autorizzate di cassa integrazione. Sono solo la metà quelle che sono state fin qui utilizzate. I dati si riferiscono ai 5 mesi del 2010, gennaio-maggio. Nei primi 4 mesi dell'anno era quasi al 53%, a maggio è calata al 50,72%. E chiudiamo con un'altra notizia di lavoro che arriva da Unioncamere, da uno studio dal quale emerge che conoscenza diretta e passaparola continuano ad essere i canali più utilizzati per trovare lavoro, ma sempre più spesso le aziende per la ricerca del personale si affidano a intermediari professionali e che quindi privilegiano una buona qualificazione. Quindi cresce, dice Unioncamere, lo spazio dato al merito. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia il fisco, l'evasione fiscale e l'evasione fiscale in vacanza. Perché? Perché parte, come già vi riferiva il nostro giornale radio, un'ondata di controlli sulle spiagge, nei porti e non solo, nei cosiddetti luoghi di villeggiatura in generale, per scovare l'evasione. Evasione non solamente degli stabilimenti balneari, c'è qualche caso veramente nitido che viene citato dall'Agenzia delle Entrate come uno stabilimento balneare che dichiarava più in autunno che in estate, insomma, dal che si evince naturalmente che qualcosina evadeva, ma anche per andare a verificare, insomma, quanto spendono le famiglie, quanto spendono i contribuenti e se questo è compatibile col loro reddito. 349-238-6666 per i vostri SMS. Io saluto Luigi Magistro, che è direttore accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e che ringraziamo anche per averci raggiunto in questo 9 agosto. Buonasera, Magistro. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Prego, non c'è problema. Piacere essere con voi. Bene, ottimo. Allora, ci dica innanzitutto, molto semplicemente, come vi muoverete in questa estate, perché si diceva c'è sicuramente il controllo, quello classico, insomma, si va a verificare se il ristorante o il bar emettono lo scontrino oppure no, quanto dichiara lo stabilimento, se è compatibile con i prezzi che fa, insomma, e questo siamo quasi nell'ordinario. La realtà è che adesso c'è questa nuova forma di redditometro che più che basarsi sul possesso si basa sulle spese e quindi è forse quella la parte più delicata, più difficile e anche di incrocio di dati che dovrete fare. Ci spieghi un pochino come agirete? Sì, ecco, innanzitutto vorrei sottolineare che mentre in agosto normalmente l'Italia si ferma, tutti vanno in vacanza, ecco, come già evidenziato lei, il fisco non si ferma affatto, anzi continua nella sua battaglia contro l'evasione fiscale e in sostanza la porta in quei luoghi dove proprio è normale che in questo periodo ci siano consistenti manifestazioni di spesa, vale a dire in località turistiche e in particolare in alcune località turistiche dove le spese magari sono più sensibili. Tutto questo nell'ambito di quella strategia di contrasto all'evasione fiscale che ormai da tempo stiamo ostinatamente perseguendo, cercando quello che è il tenore di vita, dunque le spese effettivamente sostenute dai contribuenti e per raffrontare appunto le spese con quello che è il reddito dichiarato, raffronto che moltissime volte porta a delle consistenti sorprese. La campagna appunto che stiamo portando avanti adesso in agosto riguarda numerosi interventi in località turistiche e in particolare, come già ricordava lei, stabilimenti balneari piuttosto che porti turistici e via dicendo, al duplice scopo di innanzitutto intercettare appunto fenomeni di spesa consistenti da tenere presenti poi per i futuri accertamenti, al tempo stesso per prendere, come si suol dire, due piccioni con una fava, controllare anche quello che è il volume d'affari dichiarato da gli operatori turistici che purtroppo anche loro ogni tanto sono piuttosto renitenti ai doveri fiscali. Ci segnala tra l'altro un ascoltatore che a Gallipoli c'è un ristorante che non accetta carte di credito da 300 coperti la sera. Vabbè, questa la passiamo via così, insomma, sicuramente i vostri uomini arriveranno anche là. Però ci spieghi molto praticamente cosa si fa, cosa fanno gli uomini dell'Agenzia delle Entrate? Vanno in uno stabilimento balneare e si prendono il registro dello stabilimento balneare e poi controllano i clienti una volta rientrati alla base? No, guardi, il controllo in questo periodo ovviamente è il più logico in esercizi di questo genere, perché appunto lo stabilimento funziona soprattutto d'estate, soprattutto in questo periodo, si verifica quello che è numericamente la clientela presente, quindi in sostanza una conta. No, mi scusi Magistro, però non mi riferivo all'accertamento sullo stabilimento balneare e su quanto evada o meno lo stabilimento balneare, ma l'accertamento sull'utente dello stabilimento balneare. Stavo arrivando, quindi il numero e quindi si sa più o meno qual è la consistenza. Dopodiché, come tutti sanno, ad esempio gli stabilimenti balneari, visto che di questo parliamo, cosa fanno? Fanno degli abbonamenti per periodi, no? Ai vari utenti. Ecco, sono questi abbonamenti per periodi consistenti che vengono rilevati dai nostri funzionari in modo tale che fungono da informazioni per futuri accertamenti sintetici. Quindi voglio dire, non tanto il singolo ingresso, che voglio dire anche nel più lussuoso dei luoghi, magari non è di per sé solo significativo, è la spesa. Quando la spesa è rilevante, quindi ad esempio un abbonamento annuale a stabilimenti di un certo tipo, che sappiamo bene costare davvero molto e quindi deve coincidere a redditi consistenti, il che purtroppo non sempre avviene. Allora, poi allargheremo un attimo il discorso, perché voglio toccare più in generale il tema di questo redditometro, che continua a rimanere al centro dell'attenzione dopo le modifiche che sono arrivate in finanziaria. Però per adesso ci soffermiamo un attimo su questo tema, su quello dei controlli estivi. Dell'ironia l'ascoltatore che, quando abbiamo detto sugli stabilimenti balneari che ogni tanto evadono, chiede un ogni tanto tra virgolette via SMS. Qualche dato giusto per darvi un'idea: i gestori degli stabilimenti balneari dichiarano mediamente, quindi è sempre una media, 10.900 euro l'anno. Però, per tornare a quello che ci dicevamo, due domande. Questa mappa, chiamiamola così, dell'evasione estiva, se vi siete fatti un'idea di quanto possa valere, e poi quanti saranno i soggetti controllati, quanti immaginate di controllarne quest'estate? Ma guardi, sicuramente, come ha notato l'ascoltatore che ha mandato l'SMS, certo è tra virgolette, però io devo riconoscere che l'evasione non è un fenomeno proprio diffuso a tutti i livelli, cioè c'è anche chi dichiara ciò che realmente ha conseguito. Ecco, a me non piace fare di ogni erba un fascio, come le dico la verità, non mi piace parlare di medie, le medie non sono significative. L'evasione ha una sua dimensione, noi facciamo di tutto per intercettarla, appunto anche con operazioni come questa che riguardano sicuramente centinaia di milioni di fatturato complessivamente, no? Se guardiamo tutti i soggetti nei cui confronti ci siamo mossi, che sono, appunto come lei mi chiedeva, sono alcune centinaia. La campagna è ovviamente in corso, è iniziata a fine luglio, adesso ha avuto un suo picco e continuerà durante il mese di agosto, e quindi sicuramente parleremo di centinaia e centinaia di operatori controllati e dunque di migliaia, forse decine di migliaia di contribuenti nei cui confronti avremo rilevato dati interessanti ai fini poi di applicare in futuro questo famigerato redditometro. Certo, poi naturalmente dati che ovviamente andranno incrociati con i dati dei redditi. Ecco, vorrei venire più in generale al redditometro. Insomma, mi sembra un cambiamento oggettivamente forte. Insomma, rispetto al possesso ci si è posto il problema di una serie di altri elementi, tra cui i famosi centri benessere di cui si diceva, l'usufruire magari di determinati servizi come dei club o cose di questo genere. Naturalmente i leasing, magistro, no? Per esempio per quanto riguarda le barche, visto che di questo stiamo parlando. Sì, ecco, esattamente, si è passati dalla nozione di possesso, che in sé per sé non esprime necessariamente un reddito sottostante. Io posso disporre di un bene, ma non necessariamente questo bene mi deve costare chissà quale cifra per essere mantenuto. Il concetto sul quale noi ci basiamo è quello di spese effettivamente sostenute, perché siamo convinti che questo concetto è innanzitutto il più semplice da applicare da parte del fisco, ma anche il più semplice da far capire ai contribuenti, che possono così rendersi conto, nel momento in cui sostengono le spese, di quello che potrà loro capitare una volta che il fisco le intercetta. E oggi le intercetta. Non manca occasione, insomma, per sottolinearlo, lo faccio anche in questa sede. Le cose sono profondamente cambiate, ci stiamo muovendo per intercettare queste spese, come dimostra appunto anche ciò di cui stiamo adesso parlando. C'è chi ci scrive via SMS parlando, il solito discorso che si fa in questi casi un pochino, no? Di stato di polizia. In realtà uno, magistro, ha perfettamente la possibilità di dimostrare che quei redditi, no? O che può permettersi quelle spese per qualsiasi altro motivo, insomma, magari perché ha un patrimonio da parte o cose di questo genere, no? Assolutamente sì, nessuno stato di polizia, questi sono controlli assolutamente tranquilli, diciamo, che non vanno poi ad invadere in modo diciamo molto molto particolare la privacy, come si suol dire. Un controllo nei confronti degli esercenti, sono controlli che facciamo per verificare quello che dichiarano gli esercenti. Come già dicevo prima, prendiamo due piccioni con una fava e completiamo anche con questi dati. Poi tengo ad evidenziare che i dati che acquisisce il fisco sono trattati nel più completo rispetto della privacy. Noi abbiamo basi dati che vengono tutelate al massimo, quindi ripeto, niente stato di polizia, sono informazioni che servono. E a un certo punto si continua a parlare di evasione fiscale, bisogna pure che il fisco abbia gli strumenti per muoversi, ne ha avuti molti anche recentemente, è venuto il momento di muoversi, tutto qui, lo stiamo facendo. Ultima domanda, perché un'ascoltatrice ci dice che dire degli appartamenti affittati in nero al mare? Dato che le regole qua stanno un pochino cambiando, perché a un certo punto questa questione degli affitti in nero ricadrà, il controllo sugli affitti in nero ricadrà sulla testa dei comuni, in forza del provvedimento sulla cedolare secca approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri, e ne abbiamo parlato, discreto sgravio di lavoro per voi, magistro? Ma guardi, è chiaro che sono sempre elementi che per noi saranno importanti, è chiaro che l'Agenzia delle Entrate avrà sempre un suo ruolo anche di supporto nella futura applicazione di queste disposizioni, quindi non parlerei, ahimè, di uno sgravio di lavoro, perché poi sono sempre elementi che dovremo acquisire, e nel momento in cui ci sarà questa ritenuta è chiaro che per chi la applica il rapporto con il fisco si esaurirà in quel momento, certo. Per chi non la applica dovranno intervenire i comuni, vedremo anche come certo. Supportarli adeguatamente per la parte ovviamente che interessa a noi, e che è quella appunto dell'applicazione poi ai fini dell'accertamento sintetico del redditometro. E quindi comunque sempre sulla vostra testa cade, insomma, in qualche modo. Mi sa tanto di sì, comunque vedremo. Grazie a Luigi Magistro, direttore accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per essere stato con noi. Buonasera. A chi ci scrive degli spacciatori di droga con BMW, Porsche, eccetera, eccetera, quello non compete esattamente all'Agenzia delle Entrate, ma ci sembra che competa un pochino di più alle forze di polizia. Facciamo i complimenti ad Umberto, perché è un commerciante, ci dice che fa il suo dovere e non ha mai avuto timore della Guardia di Finanza. E poi la battuta, chissà perché, con il signor Menarini, si riferisce naturalmente ad Aleotti, l'uomo a cui è stato scoperto un conto in banca nel Liechtenstein da 470 milioni di euro. Chissà perché per lui i controlli non hanno funzionato. I mercati. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, finalmente una giornata positiva, no? Sì, finalmente una giornata positiva dopo quattro giornate consecutive in rosso. Diciamo che i listini si sono mossi al rialzo confidando in notizie positive dalla riunione della Federal Reserve di domani, che oltre alla decisione sui tassi di interesse sarà chiamata anche a fornire un po' un quadro sullo stato di salute dell'economia americana. In attesa di questa riunione oggi le borse hanno guadagnato tutte oltre l'1%. E anche Milano non fa eccezione, col FTSE MIB che ha chiuso in rialzo dell'1,22% e il FTSE All Share dell'1,16%. Oh, prospettive che si diceva poco fa non sono attese un granché buone, insomma si pensa che la Federal Reserve rivedrà un pochino a ribasso le sue prospettive sull'economia, oggi peraltro l'ha fatto Goldman Sachs, però come vedete sui mercati al momento l'impatto non è stato decisivo, se considerate che anche l'America tutto sommato va bene, un più 0,45% sul Dow Jones e mezzo punto percentuale sul Nasdaq. Andiamo ai singoli titoli e partiamo dalle note negative, ossia Fiat un meno 1,96%, sempre comunque sopra quota 10 euro. Guido. Sì, diciamo che i conti, oggi il mercato guardava un po' i conti trimestrali in arrivo da Chrysler, di cui appunto Lingotto ha una partecipazione del 20%. Si tratta di conti che non hanno sorpreso in modo particolare il mercato. Chrysler ha chiuso il secondo trimestre con risultati comunque in miglioramento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, l'utile operativo è stato di 133 milioni di dollari e i ricavi sono stati pari a 10,5 miliardi, inoltre anche la perdita netta si è ridotta a 172 milioni di dollari. Probabilmente a qualcuno si aspettava dei risultati migliori e si aspettava in particolar modo un rialzo degli obiettivi per il 2010 che poi durante la conference call con gli analisti Marchion ha definito come qualcosa che arriverà quasi sicuramente ma che per il momento non c'è stata, per cui insomma sono stati risultati che per quanto positivi non hanno sorpreso e il titolo Fiat oggi ha pagato un po' dazio, ecco, su questo fattore. Sì, anche la controllante si mantiene come dire là, a ridosso della parità, un più 0,06% per Exor. Fondiaria Sai, rimaniamo tra quelli negativi, poi andiamo alle note positive di giornata, meno 0,70%, certo che venerdì aveva fatto benissimo, Sì, perché appunto venerdì il titolo aveva guadagnato il 4,7% e oggi, come era nelle cose attendersi, gli operatori hanno preso un po' di beneficio. Ricordiamo che appunto nei giorni scorsi Fondiaria Sai ha chiuso il semestre con una perdita ancora molto elevata di 157,4 milioni, anche se ha confermato gli obiettivi del piano e il programma di cessione che vede in particolar modo coinvolto il polo assicurativo Liguria Sasa. E per cui l'amministratore delegato di Fondiaria Sai ha detto che insomma potrebbero esserci novità abbastanza a breve. Allora, veniamo appunto alle note positive. Si diceva Unipol oggi è il titolo migliore sul FTSE MIB, un più 3,65%. Sono ancora i conti? Sono ancora i conti. Diciamo che Unipol era stato anche abbastanza un titolo penalizzato alla vigilia dei conti semestrali, dopo i conti che hanno mostrato un ritorno all'utile per 30 milioni di euro nel semestre, anche se in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, qualcuno si sta un po' riposizionando sul titolo che comunque, a prescindere dall'entità dell'utile, mostra una chiara inversione di tendenza rispetto al rosso di 769 milioni registrato sull'intero 2009. Tra poco lo diciamo a chi ci scrive, arriveremo ad Olidata, che è un caso di borsa non di questa giornata ma in realtà anche della scorsa settimana. Prima però Unicredit. Sì, Unicredit si è mosso bene, ha guadagnato l'1,45%, un po' come tutto il comparto bancario e finanziario in generale che oggi ha recuperato. Fra l'altro per Unicredit va segnalato che oggi la Banca Centrale della Libia ha annunciato la concessione a Unicredit del via libera preliminare per l'apertura di una filiale nel paese nordafricano. Unicredit, lo ricordiamo, ha una solida relazione con la Libia dal momento che la Banca Centrale Libica e un fondo sovrano sempre della Libia hanno attualmente insieme oltre il 7% del capitale dell'istituto italiano. Questo per quanto riguarda Unicredit. Ci sono notizie particolari su Mediaset che oggi mette a segno un più 2,5% sopra i 5 euro. È emerso qualcosa? Sono ancora i conti? C'è una buona intonazione dell'intero comparto media che oggi è stato registrato. In più il titolo diciamo che approfitta anche delle valutazioni di una banca d'affari, UBS, che ha inserito il titolo nella propria selected list, per cui un po' il comparto media che si muove bene, un po' i giudizi degli analisti hanno fatto sì che oggi Mediaset abbia chiuso in progresso del 2,55%. Poi vi daremo il quadro del resto del FTSE MIB. Nel frattempo però veniamo appunto a questo caso di borsa, Olidata. oggi un'altra giornata di guadagno impressionante dopo le ultime tre sedute, se non sbaglio, Guido, che sono andate molto bene della settimana scorsa. Sì, cioè nonostante le smentite, Olidata oggi ha guadagnato un altro 19,15%, il rialzo delle ultime tre sedute è sopra il 60%, diciamo non si capisce bene perché, se non per la speculazione. Ricordiamo che venerdì pomeriggio, dopo i rialzi dei giorni precedenti, Olidata aveva comunicato che non era a conoscenza di alcuna iniziativa dell'azionista di maggioranza relativa, Acer, che detiene il 21,9%, né per un eventuale OPA né per un eventuale aumento della propria quota. Tuttavia, insomma, si continua a scommettere che qualcosa succeda su Olidata. Vedremo un pochino che cosa succederà. Ultimo titolo di cui ti chiedo è Camfin, e anche qua parliamo di rialzi abbastanza potenti, un 9% se non sbaglio. Sì, Camfin ha chiuso in rialzo del 9,13%, anche qui c'è un mix di fattori a spiegare l'andamento. Da un lato ci sono le valutazioni degli analisti che scommettono sulla holding, che poi detiene la partecipazione in Pirelli, e dall'altra si guarda anche alle prospettive della stessa holding, perché oltre a Pirelli si guarda alle mosse dopo che la famiglia Tronchetti Provera è stata affiancata dalla famiglia Malacalza all'interno della holding, quindi si cerca un attimino di capire se questa nuova alleanza, che è stata formalizzata il 21 luglio scorso, potrà portare delle novità per la holding. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore, il Sole 24 Ore, e in particolare oggi a Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, vi diamo un quadro finale di giornata di Unipol e Mediaset. Si è detto bene tutti i bancari, come ci diceva Guido Maurino, e Intesa San Paolo è il terzo titolo migliore sul FTSE MIB, un guadagno del 2,29%, oltre 2 punti percentuali di guadagno per Enel. Saipem sale dell'1,8%, così come Prismian e Parmalat. Autogrill dell'1,7%, Eni di 1,5%, così come Luxottica. Unicredit si è detto un più 1,45%, UbiBanca un guadagno dell'1,35%, dell'1,27% Pirelli, su di oltre un punto percentuale Atlantia, Cirra, 2A, la Popolare di Milano, Impregilo, il Monte dei Paschi, appena sotto Generali con un più 0,90%, Azimut con un più 0,84%, Terna in guadagno dello 0,71%, così come il Banco Popolare, ST Microelectronics dello 0,63%, appena sopra il mezzo punto percentuale Bulgari e Italcementi, Campari appena sotto, Buzzi Unicem un più 0,36%, si attendono i conti, Finmeccanica più 0,29%, Mediobanca più 0,22%, Telecom Italia più 0,20%, più 0,14% Snam Rete Gas, Exor si è detto un più 0,06%, scende dello 0,4% Ansaldo STS e scende dello 0,47% Geox, Mediolanum dello 0,6%, così come Lottomatica e Tenaris, Fondiaria SAI in calo dello 0,70%, come si diceva, e Fiat dell'1,96%, l'euro quota 1,32,36 contro dollaro, quindi ancora piuttosto forte sulla scia anche delle prospettive un pochino più negative per l'economia americana. Siamo dunque a parlare di Chrysler. Che cosa è successo oggi? È successo che Sergio Marchionne, che ricopre la carica di amministratore delegato tanto in Fiat quanto in Chrysler, è andato ad Auburn Hills, il quartier generale dell'azienda americana, per la presentazione dei dati della semestrale, dei dati della trimestrale, della seconda trimestrale e quindi della semestrale. Si parla di un utile operativo di $183 milioni, in crescita del 28% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Nel secondo trimestre Chrysler ha ridotto le perdite a $172 milioni contro i 197 del primo trimestre, utile operativo nei sei mesi a $326 milioni. Si parla di un probabile rialzo dei target. lo sentivate poco fa nel collegamento di borsa, ci si attendeva che già arrivasse oggi. In realtà non è arrivato, ma Marchionne lo ha assicurato perché ha detto è matematicamente impossibile non rivedere al rialzo i target 2010. E poi ci sono quelle tre notizie che vi citavamo poco fa, questo grande rafforzamento, e se ne parla da mesi, dei mercati cosiddetti emergenti, in particolare Russia, Cina e India per quanto riguarda la giornata di oggi, ma anche dal Brasile sono arrivati i dati della settimana scorsa e forse sono quelli per Fiat un pochino più interessanti. Saluto Giuseppe Volpato, il professor Giuseppe Volpato, che è economista all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, sembra che questa ristrutturazione di Chrysler proceda piuttosto speditamente, no? Che sensazione ha lei? Sono certamente notizie incoraggianti, sono buone notizie, anche diciamo se non devono essere esageratamente amplificate, nel senso che fanno notare gli esperti americani che questi risultati dipendono anche da una forte quota di vendite alle società di noleggio. Quindi Chrysler in questo momento è l'azienda, la casa automobilistica che in America sta vendendo di più alle società di noleggio. Infatti diciamo, nei primi sei mesi dell'anno il 39% delle vendite Chrysler sono orientate alle vendite di flotte a breve e a medio-lungo termine. C'è un motivo particolare per questo, professore? Diciamo che normalmente le case automobilistiche avrebbero interesse a vendere di più al retailing perché ai consumatori finali, gli automobilisti, fanno minori sconti. Vendendo invece alle flotte fanno sconti decisamente molto più rilevanti. Evidentemente Chrysler desidera mantenere, e in questo secondo trimestre ha anche aumentato la propria quota di mercato. Tuttavia lo fa ricorrendo a queste vendite che sono meno redditizie. Quindi va bene, nel senso che Chrysler in questo momento non ha molti nuovi modelli da presentare, anzi tranne il Grand Cherokee, che peraltro è stato accolto molto bene dalla clientela, non ha quindi modelli nuovi, e quindi è abbastanza naturale che ricorra alle vendite alle flotte. Bisognerà continuare a seguire l'andamento della Chrysler nel prossimo semestre e soprattutto nel prossimo anno, perché il vero momento di svolta sarà la seconda metà del prossimo anno, quando cominceranno a fluire un buon numero di nuovi modelli. Allora lì veramente si vedrà se Chrysler ha imboccato la strada maestra del rilancio. Per intanto cogliamo con soddisfazione questi risultati, che per la situazione sono buoni. Sono tutto sommato buoni. Poi vedremo anche come procederà questa integrazione, che dovrà portare anche dei modelli italiani negli Stati Uniti. Giusto per chiarezza a chi ce lo chiede, l'azionariato di Chrysler, di fatto Fiat controlla Chrysler, però vede il Lingotto al 20%, i sindacati americani al 67%, il governo americano al 9,8%. Questo per quanto riguarda appunto Chrysler, che è, professore, si diceva appunto parte integrante di questa strategia americana di Fiat, che appunto dovrebbe portare dei modelli italiani negli Stati Uniti. Sì, certamente è un passaggio molto importante, modelli italiani negli Stati Uniti, ma anche modelli Chrysler da vendere in Europa utilizzando le reti commerciali dei marchi Fiat. Quindi è una doppia operazione che dovrebbe rafforzare i due poli, il polo, chiamiamolo italiano per comodità, e il polo americano, perché consente un doppio passaggio di prodotti, quindi consente di ampliare la gamma con qualche cosa che in questo momento è importante, consentirà a Fiat di proporre modelli di gamma un po' più elevata che in questo momento Fiat non ha a disposizione, ma che avrà utilizzando le piattaforme Chrysler, e nel contempo consente a Chrysler di porre, di commercializzare modelli a dimensioni più piccole con motori altamente efficienti, a basso consumo e bassa emissione di CO2, che sono, diciamo, dei segmenti in cui l'attenzione dei consumatori americani sta crescendo sensibilmente. Allora, professore, veniamo a quello che è l'argomento un pochino più generale, perché le strategie di Fiat e quindi di Chrysler verso Europa e Stati Uniti a questo punto sono abbastanza chiare e lei ce le ha chiarite ulteriormente in maniera esemplare. Il punto però è un altro, il punto è che forse Fiat e Chrysler si trovano di fronte a due mercati, quello americano e quello europeo, che sono, vogliamo dire, esausti, per usare forse una brutta espressione. Insomma, i dati che sono stati diffusi oggi da tre paesi emergenti, poi la settimana scorsa, come si diceva, c'è stato il Brasile, sono notevoli, perché le vendite di automobili in Cina sono aumentate in luglio del 13,6% rispetto ad un anno fa, ed è l'incremento mensile più modesto dal marzo 2009. Con BMW che fa appunto vendite in aumento del 12%, grazie soprattutto alla forte richiesta cinese. Poi in India vendite di auto cresciute in luglio del 38%. In Russia, dato di oggi, di poco fa, sono cresciute di circa il 47%, insomma vado a memoria, 47-48%, in Brasile mi pare che sia un 25%, una cosa di questo genere. Ecco, non è che si rischia di puntare un pochino troppo su due mercati che ormai dal punto di vista delle vendite di auto non dico che possano dare poco, però viaggiano ad incentivi oppure non viaggiano? Diciamo che non c'è dubbio che la crescita dei mercati saranno concentrati nei prossimi anni nei paesi cosiddetti BRIC, quindi Brasile, Russia, India e Cina. Su questo non c'è minimo dubbio. Naturalmente Marchionne lo sa benissimo. Il problema è che purtroppo, diciamo, data la crisi, data la situazione che in parte risale anche a prima della situazione Marchionne, la Fiat si trova in ritardo su questi mercati, con la sola eccezione del Brasile. Il Brasile, la Fiat è molto presente, è il primo produttore e venditore di autovetture e veicoli leggeri, quindi qui sta, diciamo, crescendo molto rapidamente. Purtroppo è un po' in ritardo in India, dove ha realizzato il nuovo stabilimento di Rajangaon assieme alla Tata, però ancora non ha raggiunto il pieno della produzione. In questo momento, essendoci il mercato che cresce molto forte, tutti i produttori di secondo livello in India, come anche in un certo senso Fiat, avrebbero opportunità di crescere di più, perché ad esempio Suzuki Maruti non è in grado di crescere con la propria offerta al ritmo con cui cresce il mercato. Ecco. Quindi purtroppo la situazione sta migliorando, ma insomma c'è un po' di ritardo, e il ritardo purtroppo è ancora più accentuato in Russia, dove l'accordo con la Sollers è stato fatto, ma ancora non è addirittura di arrivo industriale, cioè ancora non è partita la produzione, e a maggior ragione in Cina, dove anche lì è stato fatto l'accordo dopo precedenti accordi che non hanno funzionato. Adesso c'è un accordo per la realizzazione di uno stabilimento che arriverà a produrre a regime 250.000 vetture, però al momento lo stabilimento è ancora sulla carta. Ecco, quindi purtroppo qui la Fiat ha ancora del ritardo. Marchionne lo sa, Marchionne ha cercato di intervenire, purtroppo però altre case automobilistiche, in particolare Volkswagen, ma come diceva lei prima, BMW, Mercedes, Toyota, Audi, avendo situazioni economicamente più robuste, sono partite prima e stanno sfruttando in pieno questa forte crescita di mercato. Grazie, vedremo se Fiat sarà in grado di superare, di colmare questo divario, questo ritardo. grazie al professor Giuseppe Volpato per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera a voi. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.